Storie italiane. Il Buddha e il mendicante. C'era una volta un mendicante che stava cercando di raccogliere del cibo. Continuava a notare ogni giorno che il cibo scompariva. Un giorno vide il topo che rubava di continuo il suo cibo. Oh topo, perché mi stai rubando il cibo? Sono un senzatetto. Vai a rubare ai più ricchi. Non se ne accorgeranno nemmeno. Ma il mio destino è quello di derubarti. Cosa? Perché? Perché il tuo destino è di avere solo 8 oggetti in tuo possesso. Non importa quanto implori, non importa quanto raccogli, questo è tutto ciò che potrai avere. Il senzatetto era scioccato e anche molto triste. Chi avrebbe mai desiderato una tale sfortuna? Perché questo è il mio destino? Io non lo so. Dovresti provare a chiedere al Buddha. Forse lo saprà. Così il senzatetto iniziò il suo viaggio per trovare il Buddha. Viaggiò per tutto il giorno e all'imbrunire si ritrovò nella tenuta di una famiglia benestante. Stanco e assonnato, decise di passare la notte lì. Quindi andò a bussare alla loro porta. Buon uomo, si sta facendo buio e io sono nuovo qui. Posso passare la notte qui, per favore? Ok, entro. Mentre il mendicante entrava in casa, l'uomo chiese: Giovane, perché e per dove viaggi così tardi? Oh, ho una domanda per il Buddha e lo incontrerò. Proprio allora, la moglie del ricco arrivò e sentì queste parole. Possiamo chiederti di fare una domanda al Buddha? Oh, bene. Credo di poter fare domande per tuo conto. Qual è la tua domanda, signora? Ah, abbiamo una figlia di 16 anni che non sa parlare. Vogliamo solo chiedere che cosa dobbiamo fare per farla parlare, eh? Così il mattino dopo il senzatetto li ringraziò per la loro ospitalità e assicurò loro che avrebbe fatto la domanda a Buddha. Addio! Continuò il suo viaggio e vide un mare di montagne da attraversare. Oh, signore, come faccio ad attraversarle ora? Si arrampicò su una montagna e incontrò un mago. Caro signore, può aiutarmi a superarle? Salta su! Il mendicante saltò sul bastone del mago e si sedette dietro di lui. Il mago usò il suo bastone per caricare se stesso e il giovane e volare attraverso il mare di montagne. Mentre volavano sopra il mare di montagne, il mago chiese al giovane uomo: Dove stai andando? Perché hai deciso di attraversare queste montagne? Ho intenzione di incontrare il Buddha e fargli una domanda sul mio destino. Oh, davvero? Potresti per favore fare una domanda per me al Buddha? Ho cercato di andare in paradiso per 1000 anni e per quello che ne so dovrei essere in grado di andare in paradiso ora. Puoi per favore chiedere al Buddha cosa devo fare per andare in paradiso? Certo che farò la tua domanda per te. Mentre continuava il suo viaggio, incontrò il suo ultimo ostacolo, un fiume che non poteva attraversare. Oh cielo, come attraverserò questo fiume selvaggio e profondo? Per fortuna, incontrò una tartaruga gigante che decise di portarlo oltre il fiume. Mentre attraversavano il fiume, la tartaruga chiese: Dove stai andando? Vado a incontrare il Buddha e gli farò una domanda che riguarda il mio destino. Vorresti per favore fare una domanda per me? Sicuro? Quale? Ho cercato di diventare un drago per 500 anni. Per quel che ne so, avrei dovuto diventare un drago ormai. Puoi per favore chiedere al Buddha cosa devo fare per diventare un drago? Grazie, cara tartaruga, per avermi fatto attraversare il fiume. Non c'è di che. E non dimenticare la mia domanda. Certo che no, farò la tua domanda per te. Il senza tetto continuò il suo viaggio alla ricerca del Buddha e finalmente raggiunse il luogo dove risiedeva. Il mendicante si trovò di fronte al monastero e fece un respiro profondo. Oh, eccomi qui, finalmente incontrerò il grande Buddha. Così il mendicante entrò, pieno di eccitazione, pronto a porre la sua e le altre domande. Mentre entrava e si inchinava davanti al Buddha, «Per favore, accetta i miei migliori auguri, Buddha. Vengo da una terra lontana per farti alcune domande. Posso, per favore?» «Certo che può, ma risponderò a tre domande per te. Solo tre domande.» Il giovane uomo era scioccato, aveva quattro domande. «Ma io ne ho quattro. Cosa faccio?» Quindi pensò attentamente. Pensò alla tartaruga. La tartaruga viveva da 500 anni cercando di diventare un drago. «Poveretta, che vita dura deve condurre in quel fiume profondo?» Poi pensò al mago, vissuto per 1000 anni, cercando di arrivare in paradiso. «Oh, 1000 anni sono lunghi. Merita di andare in paradiso ora.» Alla fine pensò alla ragazza, che vivrà tutta la sua vita senza poter parlare. «Oh, la vita senza parlare è crudele.» E poi guardò se stesso. «Sono solo un mendicante senza tetto. Posso tornare da dove sono venuto e continuare a mendicare. Ci sono abituato. Non cambierà nulla. Ma per loro tutto può cambiare se otterranno le risposte.» Così, mentre guardava i problemi di tutti gli altri, il suo problema sembrava improvvisamente così piccolo. Si sentì dispiaciuto per la tartaruga, il mago e la ragazza. E così decise di porre tutte le loro domande. E il Buddha, come previsto, rispose. «La tartaruga non è disposta a lasciare il suo guscio. Finché non sarà disposta a lasciare la comodità del suo guscio, non diventerà mai un drago.» «Oh, chi l'avrebbe mai detto?» «Il mago porta sempre il suo bastone e non lo abbassa mai. Questo fa da ancora che lo trattiene a terra.» «Oh, glielo dirò. E la ragazza?» «Per quanto riguarda la ragazza, potrà parlare solo quando incontrerà la sua anima gemella.» «Grazie, oh grande Buddha.» Buddha lo guardò e sorrise. Il senzatetto si inchinò al Buddha e partì per il viaggio di ritorno a casa. Incontrò la tartaruga. «Hai chiesto?» «Oh, sì! Devi solo toglierti il guscio e poi diventerai un drago!» La tartaruga si tolse il suo guscio e dentro il guscio c'erano perle inestimabili che si trovavano nelle parti più profonde dell'oceano e le diede al senzatetto. «Eccole, per te, per ringraziarti. Non ho più bisogno di questo, perché ora sono un drago. Grazie, gentile uomo.» E volò via. Il senzatetto incontrò il mago sulla cima di una montagna. «Devi solo mettere giù il tuo bastone e sarai in grado di andare in paradiso.» «Veramente?» «Questo è ciò che ha detto Buddha.» Quindi il mago lasciò andare il suo bastone, lo diede al giovane uomo, ringraziò e salì in cielo. «Addio, giovane! Sii buono!» Il giovane uomo adesso aveva la ricchezza della tartaruga e il potere del mago. Ritornò dalla famiglia che gli aveva dato rifugio. Erano molto felici di rivederlo e si aspettavano una risposta. «Il grande Buddha ha detto che vostra figlia sarà in grado di parlare quando incontrerà la sua anima gemella.» E in quel momento la figlia venne di sotto e parlò. «Ehi, È l'uomo che è stato qui la settimana scorsa? La ragazza e i suoi genitori erano scioccati. Guardavano il mendicante. Era l'anima gemella della ragazza. I genitori fissarono il loro matrimonio e vissero felici e contenti. Quindi ricordate, amici, tutto il bene che fate nel mondo tornerà indietro per voi.